I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Sebastiano Barisoni. Perché in un appuntamento dedicato all'economia dovremmo parlare di corruzione? Perché la corruzione ha un costo per questo paese che è quantificato in 60 miliardi di euro e la stima è sicuramente sottodimensionata, visto che è della Corte dei Conti ma appartiene ormai a qualche anno fa. La corruzione colloca anche il nostro paese al 90° posto a livello mondiale, ma non si tratta solo di una classifica, perché significa che pochissimi gruppi internazionali hanno voglia di venire a concorrere a partecipare alle gare se ritengono che in questo paese le gare siano già aggiudicate e con metodi non trasparenti. La corruzione, questo è ovvio, fa lievitare i prezzi delle opere prima che vengano consegnate e ne allunga comunque i tempi, come dimostra la vicenda dell'Expo, perché quando devi porre un commissario straordinario a vigilare sulla corruzione è chiaro che tutte le procedure diventano più farraginose. Resta da chiedersi come mai negli altri paesi invece le opere si facciano e quali strumenti la tecnologia metta a disposizione. Un esempio su tutti: la Gran Bretagna ha appena varato un piano da 17 miliardi di euro per realizzare 100 chilometri di nuova rete ferroviaria attorno a Londra e 38 gallerie, riammodernare tutte le stazioni già esistenti. Per rendere ancora più trasparenti gli appalti, la Gran Bretagna si è affidata anche all'information technology e a società che permettono di mettere online e rendere tracciabile qualunque movimento. Chi ha vinto questo appalto? Ovviamente una società italiana. Chissà che non possa vincere un appalto anche in Italia per rendere più trasparenti a livello informatico le nostre gare, dovesse mai essercene bisogno. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alessandro Plateroti. Ancora un attentato, ancora morte, ancora terrorismo islamico a due porte dall'Italia. La nuova crisi che si sta consumando in Tunisia ci conferma ancora una volta che la risposta al terrorismo internazionale non è più una risposta dei singoli, una risposta della Germania, della Francia, degli Stati Uniti e dell'Inghilterra, ma può essere solo una risposta internazionale. E se vogliamo, dovrebbe essere soprattutto una risposta dell'Europa. Quell'unità di intenti, quella determinazione che ha permesso di arrivare al quantitative easing, di salvare il sistema finanziario internazionale con una voce sola in Europa, anche se la voce stonata della Germania a volte, stavolta non è, deve ripetersi in maniera urgente sul piano della sicurezza interna. Non è più possibile pensare che la Germania o la Francia facciano una politica europea, ma è possibile e si deve pensare che sia l'Europa insieme a trovare una linea comune per arginare il fenomeno terroristico e ridare così sicurezza e soprattutto stabilità in un momento in cui l'Europa è esattamente quello di cui ha bisogno. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.